Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. E dire che ci eravamo preparati con cura, come veri dilettanti carichi di timori. Non so quanto avevamo discusso e quante parrocchie periferiche avevamo colpito prima di andare a rubare il vero Gesù bambino, laggiù, a San Pietro. Questo era l'incipit del Grande Circo Invalido di Marco Lodo. I heard you say something to the effect, good poetry you'd never bring. Perhaps you was being funny to say such a thing.

never meant to be. You, me, and maybe we were never meant to be. Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, 'cause I heard him on the radio. Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, and you're coming back to me. I know Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, I heard him on the radio. Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, Elvis isn't dead. Me, you chose, I wish it was me, you chose, I wish it was me, you chose, I wish it was me, you chose. Elvis ain't dead, and you're coming back, and Elvis ain't dead, and you're coming back, 'cause Elvis ain't dead, Elvis ain't dead, and Elvis ain't dead, and Elvis ain't dead. Elvis has left the building. Thank you and good night. È la seconda parte di Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni, tutti i giovedì, tutti i venerdì, ma anche tutti gli altri giorni della settimana lavorativa qua sulle frequenze di Rock FM, altrimenti disponibile in podcasting. Vi ricordate, voi che ascoltavate Eclettica anche nella stagione scorsa, degli Scouting for Girls e del brano intitolato It's Not About You? Era un bel brano che ho trasmesso spesso. Ecco, gli Scouting for Girls sono usciti con una nuova canzone, non così bella. Ve la siete appena ascoltata, Elvis Ain't Dead, è il pezzo che si è appena chiuso. Prima ancora era stata la volta di Tom Brosseau con Amory, ed ora invece un disco che è uscito in questo 2007 per la Network dal titolo These Friends of Mine, un disco a nome Rosie Thomas, cantautrice di Seattle, che in questo caso si fa dare una mano da Sufjan Stevens. E in questo periodo di Eclettica, in cui così tanto spesso ci ascoltiamo cover degli R.E.M. da Automatic for the People, ci ascoltiamo una cover degli R.E.M. non da quell'album. Infatti, questa è The One I Love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple thought to occupy my mind. This one goes out to scantonare. Ecco cosa ci piace fare. Fuggire via dalla pazza folla e imboccare un vicolo a caso. Gettare l'occhio in un cortile. Frugare tra le pietre della città alla ricerca di un'isola nascosta. Oggi è domenica e tanta gente si travasa avanti e indietro tra Campo dei Fiori e Piazza Farnese. Spazi adiacenti che raccontano bene l'anima. L'anima doppia della nostra città. Popolare e patrizia. Sprezzante e formale. Chiassosa e reticente. I tavolini dei caffè traboccano di persone che sfogliano quotidiani e assorbono con indifferenza le ultime notizie e il calduccio del sole di novembre. Ma forse qualcuno ha ancora voglia di scantonare. Scantonare nell'ombra per 10 minuti. Questo era l'incipit di Isole di Marco Lodoli. And time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go. Up late. with the loudest sound. With lunar ideas he got lost. A new star. Il nuovo di Fujiya e Miyagi prima, poi 17 Evergreen appena ascoltati ed Eclettica che si chiude con un'interessante novità che arriva dall'Inghilterra. Loro si chiamano Mystery Jets, se avessi scritto così Mystery quando ero a scuola avrei avuto un segno rosso, e Giulio Caperdoni che quindi è arrivato anche alla conclusione con questo brano per quanto riguarda la trasmissione di quest'oggi. Hey! Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 6, volume numero 4. Indice, Ivana XL, The Ghost Station, PJ Harvey, Sons and Daughters, Cancel the Astronauts, Sia, Lack Thereof, Siberian, Tom Brosseau, Scouting for Girls, Rosie Thomas assieme a Sufjan Stevens, Fujiya e Miyagi, 17 Evergreen, Mystery Jets. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.